Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 7 minuti e 12 secondi, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Vi dico subito che la giornata dei mercati è iniziata bene, sta volgendo al peggio, il FTSE MIB cede lo 0,45%, il FTSE Share lo 0,26%, negativa in realtà in questo momento. Milano è la migliore d'Europa perché vanno male tutte le altre, Parigi perde lo 0,89%, Francoforte addirittura il 2,25% dopo aver avuto un crollo improvviso del 4% circa un'ora fa. Male anche l'America col Dow Jones che cede l'1,17%. Parleremo di questo naturalmente, parleremo di mercati, ma parleremo naturalmente anche della manovra. Le ipotesi di lavoro continuano ad affastellarsi, continuano ad arrivare sul tavolo. Tra queste, l'ultima che vi segnaliamo, e parleremo anche di questa, una presunta, così è stata chiamata dal ministro Calderoli, tassa sull'evasione, alla quale il PD si è affrettato ad aderire, quantomeno con le parole di Piero Fassino. Vedremo di capire che cosa si tratta, cercheremo di comprendere. Nel frattempo ci sono anche le voci di questa giornata, che sono le voci delle audizioni delle parti sociali in Parlamento, appunto per dare la loro opinione sulla manovra. Oltre a parlare di questo e a parlare di mercati, parleremo ovviamente di Steve Jobs, dell'addio di Steve Jobs a Apple, alla guida operativa di Apple. Qual è il futuro di questa azienda, che è la seconda per capitalizzazione in tutto il pianeta, con il suo nuovo capo che è il neo direttore generale Tim Cook. Vedremo di tracciare anche un profilo di Steve Jobs, anche se insomma ne sapete tantissimo tutti quanti. Questo è il quadro della giornata, iniziamo dalle notizie in breve. Prosegue in calo l'oro, è sceso a 1730,77 dollari l'oncia nella giornata di oggi, la flessione in apertura è stata dell'1,6%. Mentre prosegue il periodo di rialzo per il petrolio, continua il WTI, il petrolio quotato a New York, l'andamento positivo della giornata di ieri, scambiato 86,37 dollari al barile. Vengono diffusi intanto dall'Unione Petrolifera Italiana i dati sui consumi petroliferi italiani in luglio, e non è un buon segnale perché sono stati pari a circa 6,4 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 6% rispetto allo stesso mese del 2010. In calo netto anche i carburanti, la benzina nel complesso ha mostrato un calo del 12,1%, mentre il gasolio da autotrazione del 5,7%. I dati dall'America, che non hanno fatto bene ai mercati, sono soprattutto quelli sui sussidi di disoccupazione, che crescono di 5.000 unità a 417.000, mentre in realtà ci si aspettava qualcosa di meglio. Eppure c'è una notizia che dovrebbe confortare Wall Street, e chissà come sarebbero andate le cose se non fosse arrivata, che la Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, ha deciso di investire 5 miliardi di dollari in Bank of America. È forte, dice Buffett, ho detto ai vertici che volevo investire, sono impressionato dalla capacità di generare profitti del franchise. Bank of America è concentrata sui clienti e sul servirli bene, ha riferito poi particolare di colore, ve lo diciamo, che ha deciso di fare questo investimento mentre si trovava nella vasca da bagno. A proposito di guru, in questo caso abbiamo parlato di un guru della finanza, un guru della tecnologia e anche della finanza. Steve Jobs, come si diceva, ha deciso di dimettersi da amministratore delegato della Apple, al suo posto Tim Cook. Vi ricordiamo che Jobs fondò la compagnia nel 76, aveva detto che se non fosse più riuscito a far fronte agli impegni avrebbe lasciato. Sfortunatamente, ha scritto, quel giorno è arrivato. Ancora notizie dall'Europa, con la Banca Centrale Europea che procede all'acquisto di titoli di Stato italiani e spagnoli. Lo riferiscono fonti di mercato, come sempre la BCE non parla in questi casi, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo le parole delle quali vi abbiamo riferito ieri del presidente tedesco Wolf, ha detto: non criticherò la BCE perché prende le decisioni in modo indipendente. Nel frattempo il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, durante una discussione pubblica, risponde piccato all'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, che aveva parlato di un'eurozona vicina al collasso. È sbagliato, dice, se fossi americano mi chiederei piuttosto dove sarà il dollaro fra 10 anni. E veniamo al primo argomento di giornata, la manovra. Attenzione, ci scrivete al 349-238-6666. Ma come? Volete scherzare? Consumare meno petrolio e benzina è negativo? No, non diciamo che sia negativo. Diciamo semplicemente che quando diminuiscono così drasticamente i consumi è un cattivo segnale per l'economia. A meno che nel mercato non si siano diffuse in maniera improvvisa una quantità, se non si sia diffusa in maniera improvvisa una quantità enorme di auto elettriche. Veniamo dunque alla manovra. Aggiornamenti quotidiani, come abbiamo detto, si accavallano prese di posizione. L'ultima, dobbiamo dire la verità, abbastanza curiosa e che ha ricevuto l'appoggio anche del Partito Democratico, almeno per bocca di Piero Fassino, dell'ex segretario e attuale sindaco di Torino, è quella di Roberto Calderoli. Dice: la Lega sta elaborando una tassa sull'evasione. Marco Rogari del Sole 24 Ore, di nuovo con noi oggi, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Ma che cosa è questa tassa sull'evasione? Ancora non è chiaro, nel senso che i tecnici di Calderoli e della Lega ci stanno lavorando, tant'è che Calderoli ha atteso stasera anche a Roma proprio per definire questa misura che dovrebbe poi essere sottoposta lunedì a Berlusconi nel vertice che è decisivo che ci sarà con Bossi sulla manovra. L'idea è quella, come posso dire, di introdurre una sorta di patrimoniale, sicuramente per non come posso dire su patrimoni di piccole entità, quindi non di qualche centinaia di migliaia di euro, ma qualcosa di più sostanzioso, e poi verificare se il contribuente ha già pagato su beni mobili e immobili le imposte previste. In questo caso le imposte previste verrebbero scalate se non dovessero essere state pagate, magari con beni collegati a società o in altro modo, scatterebbe in toto questa patrimoniale. Questa è, diciamo, l'idea. Poi sul meccanismo, ripeto, ancora non se ne sa di più. Sì, quindi l'idea è in sostanza di una patrimoniale che pesa maggiormente su chi avrebbe evaso, in sostanza. Questa sarebbe l'idea, ma in realtà andrebbe a pesare su tutti i patrimoni. Esattamente, scatterebbe su tutti i patrimoni sicuramente, e ovviamente a quel punto, depurata dalle imposte già pagate, si tratterebbe di andare a vedere che cosa rimane. Se si è in regola non si pagherebbe nulla o poco, se invece non si è in regola si pagherebbe per la prima volta sostanzialmente. Ok, una quasi patrimoniale con aggravio per l'evasore, questa è l'idea della Lega al momento. Che cos'altro circola oggi, Marco? Perché visto che ce n'è una al giorno te la chiediamo così, o più di una al giorno in realtà. Oggi diciamo che è una giornata molto di trattative sotterranee, se sono più o meno tutti in attesa di questo vertice che ci dovrebbe essere lunedì tra Berlusconi e Bossi, come dicevo prima, vertice che dovrebbe, come posso dire, mettere la parola fine in un senso o nell'altro a questa lunghissima trattativa. Le posizioni sono note, quindi da una parte la Lega che non vuole le pensioni. Oggi Calderoli ha parlato di pensioni, di persone che percepiscono pensioni senza aver pagato contributi, ma si riferiva al capitolo dell'assistenza, quello che dovrebbe scattare con la delega fiscale. Quindi sulle pensioni convenzionali, pensioni di anzianità e pensioni di vecchiaia, la Lega non è disposta ad aprire e allo stesso tempo non vuole ritocchi dell'IVA, al contrario di quanto invece vorrebbe il PDL, che punta a un intervento sulla previdenza e quantomeno a recuperare risorse dall'incremento dell'aliquota ordinaria IVA, quella più alta, che interessa anche i beni di consumo. Poi ci sono i cosiddetti frondisti del PDL che presentano una loro proposta, a testimonianza forse, Marco, che quell'accordo che si cercava con Alfano e quindi con la maggioranza del PDL evidentemente non si è trovato. Ma non è che non si è trovato, nel senso che il clima è sicuramente migliorato, anche nel vertice di ieri sera non c'è stata una netta contrapposizione. I frondisti hanno una loro filosofia, che è quella di intervenire soprattutto sulla spesa, cioè loro dicono servono riforme strutturali e non bisogna ricorrere eccessivamente alla tassazione, come invece a loro parere sarebbe accaduto con questa manovra aggiuntiva. E quindi nel loro pacchetto di proposte, che si tradurranno probabilmente in emendamenti singoli al di là dell'intesa che potrà essere realizzata tra PDL e Lega, prevedono tutte misure o quasi tutte misure di taglio alla spesa, quindi tra queste, oltre alle pensioni ovviamente, la riduzione degli organici, come è emerso oggi nella pubblica amministrazione, del 25%, il tetto agli stipendi dei super manager pubblici, ad esempio, e altri interventi antispreco, chiamiamoli così. Quindi direi decisamente, Marco, situazione fluida, come si dice in gergo, nel senso che siamo ancora in alto mare su quelli che poi saranno gli emendamenti che veramente verranno portati dalla maggioranza in Parlamento. Sì, è chiara una cosa, che lunedì scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio. Se il vertice tra Berlusconi e Bossi dovesse esserci lunedì sera, come accade insomma abbastanza convenzionalmente, questo vorrebbe dire che gli emendamenti, diciamo quelli poi selezionati su cui si andrà davvero a votare, dovrebbero arrivare o dal governo, oppure ci potrebbe essere un maxi emendamento con la fiducia già al Senato, quindi con ricorso al voto di fiducia, che fin qui era stata considerata un'ipotesi non gettonatissima. Anche perché si vuole ricercare quell'ampio consenso richiesto anche al Presidente della Repubblica, no? Quindi, esattamente. Quindi la fiducia, come dire, sarebbe considerata almeno dalle opposizioni una sorta di strappo. Esattamente. Chiarissimo, grazie anche per oggi a Marco Rogari del Sole 24 Ore. E come al solito io vi ricordo che domani sul Sole 24 Ore troverete ampia trattazione di tutto questo, molti dettagli e probabilmente anche molte più indicazioni e indiscrezioni rispetto a quelle che siamo in grado di darvi a quest'ora del pomeriggio. Grazie Marco e buonasera. Grazie a voi. E noi veniamo sempre in merito alla manovra, alle voci di questa giornata, riferendovi innanzitutto di qualche presa di posizione, come quella del presidente della Campania Stefano Caldoro, che dice con questa manovra non c'è più nessuna possibilità di attuare il federalismo, della regione Sicilia, che dice che sono insostenibili i tagli di 4 miliardi in due anni, e poi dell'allarme, sempre in tema di regioni, della Liguria, che lamenta il fatto che vengano cancellate o spostate alcune feste, dice senza ponti ci sono gli alberghi e il turismo a rischio. E ancora, per rimanere in tema di enti locali, l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, chiede di stralciare la cancellazione dei piccoli comuni. Veniamo invece alle parti sociali, iniziando dalla Confindustria, che dice che i rischi sui mercati sono ancora alti durante l'audizione, e intervistato da Alessandra Schepisi a margine dell'audizione, Giampaolo Galli, direttore generale, indica le principali criticità della manovra, appunto a giudizio di Confindustria. Noi abbiamo ribadito le nostre tesi. In particolare noi siamo molto preoccupati per due misure. Una è la cosiddetta Robin Hood Tax e l'altra è il contributo di solidarietà. La Robin Hood Tax è una tassa che viene fatta gravare sui produttori di energia e che adesso, secondo le ultime ipotesi, verrebbe estesa anche ad altri settori, concessionari, telecomunicazioni, eccetera. Noi riteniamo che questi interventi spot che colpiscono alcuni settori sono molto negativi, perché fanno perdere la fiducia e scoraggiano gli investimenti in Italia. Quindi noi dobbiamo in questo momento riconquistare la fiducia dei mercati internazionali, degli operatori internazionali. Noi con misure di questo tipo scoraggiamo i finanziamenti a investimenti che possono essere fatti in Italia e che contribuiscono a creare occupazione, ricerca, valore aggiunto. Quindi noi siamo assolutamente contrari a questa imposta, così come siamo contrari al contributo di solidarietà nella misura in cui è stato proposto nel decreto, perché questa è una tassa che fa pagare coloro, quei pochi che con redditi medio-alti pagano le tasse. Noi riteniamo che si debba innanzitutto anticipare quella parte della delega fiscale assistenziale in cui si fa scattare in sostanza una clausola di salvaguardia e si aumenta l'IVA dal 20 al 20%, e noi proponiamo dal 20 al 21%. E in secondo luogo, se proprio si deve fare un intervento, diciamo così, di solidarietà, è meglio farlo sui patrimoni immobiliari piuttosto che sui redditi di coloro che, ripeto, le tasse già le pagano. Così Giampaolo Galli, direttore generale di Confindustria, e ora Susanna Camusso, segretario della CGIL, sempre al microfono di Alessandra Schepisi. Abbiamo ribadito da un lato che c'è una necessità, data la situazione economica del Paese, di fare una manovra, e quindi che la nostra proposta si muove negli stessi saldi previsti dalla manovra del Governo, che si può spostare consistentemente il punto di prelievo di queste risorse. Devo dire, trovando anche condivisione in altre proposte sul fatto che l'evasione è il primo terreno nel quale agire. Il secondo ragionamento è spostare la tassazione sulle grandi ricchezze, sui grandi patrimoni immobiliari, in modo da ricostruire anche un equilibrio, e a partire da queste poi ragionare sul fatto che l'altra grande criticità di questa manovra è che è depressiva, non determina crescita, quindi deprime l'occupazione e deprime la crescita, e quindi il fatto che una parte delle risorse di riequilibrio del Paese si trova anche rilanciando gli investimenti e l'occupazione. Nel dettaglio poi le abbiamo distribuite ieri, ma abbiamo riprecisato tutte le nostre proposte. Sull'aumento dell'IVA all'1%? Ma guardi, sull'aumento dell'IVA lo dicevamo adesso anche alla Commissione. L'IVA ha una caratteristica, intanto che rispetto ai consumi è regressiva, non è vero che, come dire, colpisce di più i grandi, i ricchi consumatori rispetto ai consumatori più poveri, quindi da questo punto di vista è di nuovo una tassa non equa nel rapporto con la cittadinanza, e poi ha degli effetti di crescita dell'inflazione, quindi può apparire nel breve una cosa che non incide immediatamente, ma è nel medio periodo una cosa che di nuovo ricade sul lavoro dipendente e sulle pensioni, vorrei dire la tassa più evasa, tra l'altro. Così ancora anche Raffaele Bonanni, leader della CISL, chiede di intervenire sui costi della politica che si annidano ovunque. Noi porteremo avanti la nostra battaglia contro le parti che della manovra non ci convincono. Uno è che sui costi della politica e delle amministrazioni e istituzioni ci si va col piede leggero, e invece si pretenderebbe andarci col piede pesante sulle pensioni. Non ci convince il fatto di caricare ancora sul pubblico impiego, non ci convince sottrarre l'IVA alla riforma fiscale. Ci convince il fatto, e spero che il Parlamento ci sostenga, chi ha di più possa pagare di più. Noi siamo perché i valori mobiliari e immobiliari siano elemento per questo contributo di solidarietà che chissà perché mai nessuno ha voluto considerare. Ci chiedete qualche dettaglio in più sulla questione delle pensioni di reversibilità? È semplicemente una proposta del ministro Calderoli, nel senso che la Lega ha aperto a una serie di modifiche per quel che riguarda le pensioni, ma solamente per quel che riguarda le pensioni di reversibilità, non altre. E ancora l'altro sindacato, Luigi Angeletti della UIL. Le nostre aspettative sono molto chiare. Ci aspettiamo che si intervenga sugli unici due aspetti che noi riteniamo fondamentali. Iniziare ad una seria riduzione dei costi della politica e una seria riduzione dell'evasione fiscale. Queste due soluzioni sono in grado di far sì che la manovra abbia il senso dell'efficacia e anche dell'equità. Chiedete cosa impedisce di calcolare i costi standard e tagliare rimesse eccedenti alle regioni sprecone. A parte che è complicato, crediamo nulla. E ancora, Rete Imprese Italia. Il presidente di turno dell'Alleanza di Associazioni di Imprese, presidente della CNA, Ivan Malavasi, intervistato da Alessandra Schepisi. Abbiamo presentato un documento di Rete Imprese Italia alla Commissione Bilancio, dove abbiamo sottolineato alcuni aspetti di criticità che ci preoccupano particolarmente. Per grandi linee ci sono due aspetti. Una manovra poco strutturale, molto basata su entrate spot e su aumento di pressione fiscale, con mancanza addirittura di crescita e quindi assieme una debolezza sostanziale che contiene la manovra. L'aumento della pressione fiscale è allo stato dell'arte, se non cambia nulla, del 63%, che aumenterà fino al 71% quando i comuni applicheranno le addizionali IRPEF a fronte dei mancati trasferimenti. Quindi una reale preoccupazione. Abbiamo detto alcuni no molto duri, molto secchi. Pensiamo alla revisione di studi di settore che ne snaturerebbe la misurazione del reddito, ma se diventerebbe solo uno strumento in percentuale d'aumento. Pensiamo che l'IVA ormai è diventata a tutti come una delle soluzioni dei tanti problemi, ognuno vuole tagliare un pezzo delle entrate e aggiungere l'IVA, pensiamo che sia una scelta sbagliata, l'IVA viene usata sia come clausola di salvaguardia rispetto alla realizzazione della riforma fiscale, sia come compensazione di un'eventuale abolizione del contributo di solidarietà. Noi pensiamo che in entrambi i casi non vada toccata, perché ripeto sarebbe una questione di natura repressiva e di depressione del PIL. Pensiamo invece che se c'è un modo intelligente per affrontare il tema del contributo di solidarietà sia quello di una tassazione progressiva sui grandi patrimoni immobiliari e mobiliari, escludendo naturalmente quelli di natura strumentale. Esula un po' dalla manovra, ci sono dei segnali di stretta sul credito per le imprese? Si parla di un nuovo credit crunch che potrebbe abbattersi sulle imprese come è successo in agosto del 2007. No, noi abbiamo, sul credito attualmente non abbiamo segnali particolari, ne abbiamo uno che ci preoccupa, che è Basilea 3, al quale noi abbiamo presentato delle osservazioni come al commissario Trichet. L'abbiamo fatto a fine agosto, il 28 agosto, assieme al commissario Trichet e al commissario Traiani, facendo una proposta come Rete Imprese Italia, Confindustria, Alleanza delle Cooperative e ABI, chiedendo una modulazione diversa rispetto alla tipologia delle imprese italiane. Quindi quel rafforzamento di capitale non può prescindere dalla condizione particolare del nostro paese, basato principalmente sulla piccola media impresa italiana. Quindi segnali come conseguenza di questa crisi dei mercati finanziari, una stretta sul credito? No, attualmente non sono prevedibili. Le grandi banche italiane ormai hanno già fatte o chi ha in corso d'opera gli aumenti di capitali, che mi auguro si concludano rapidamente, dando più stabilità, però tutti gli esami fatti fino ad oggi sul cosiddetto credit crunch hanno dato risultati positivi. Abbiamo parlato nei giorni scorsi del tema della liquidità delle banche, di qualche segnale che sembrava arrivare anche dalla Banca Centrale Europea, abbastanza netta la risposta di Malavasi, come avete sentito. Qualche altro sms e poi un'altra voce di questa giornata sulla manovra dopo la pausa. 17:34 minuti e 20 secondi. Di nuovo buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms, proposte per la manovra. Arriva anche quella sulla riscossione delle multe sulle quote latte, ci scrive Stefano, un allevatore che invece le multe le ha pagate. Beh, se la Lega ha chiuso sulle pensioni, immagino che su questo non sia disposta a transigere. E poi sulla tassa sugli evasori, questa nuova proposta arrivata da Calderoli, Carlo da Torino già pensa a come, forse a come cavarsela, ma chi intesta gli immobili ad una società se la caverebbe, ci scrive. Non lo sappiamo, non c'è nemmeno una formulazione di questa presunta legge. Veniamo ad un'ultima voce sulla giornata di manovra, che viene definita iniqua e segnata da un potenziale recessivo in una lettera aperta pubblicata sul giornale online L'Inchiesta da 75 manager. Le proposte che fanno sono lotta alla microevasione, innalzamento dell'età pensionabile, ritorno dell'ICI con forti deduzioni per i meno abbienti e aumento dell'IVA. Secco soprattutto il no al contributo di solidarietà, considerato sbagliato e ingiusto. L'economista Salvatore Bragantini, uno dei firmatari, spiega il perché al microfono di Giacomo Segantini. Il suo difetto è quello che grava solo su chi già paga, e a fronte di questo non si vede un forte aumento della lotta all'evasione, per esempio con una tracciabilità molto più accentuata di quanto sia previsto anche nelle recenti modifiche. Quello che si potrebbe fare è di tassare sì questi maggiori redditi, ma dando una detrazione a fronte di investimenti che accrescano il contenuto di innovazione delle imprese. Il problema è che servirebbe un'amministrazione seria, perché un'amministrazione seria non tollererebbe, per esempio, ma è solo un esempio, i casi di doppi stipendi. Naturalmente non è che da questo verrebbero i soldi che servono per la manovra, ma lavorando su cose di questo tipo sì, ecco, e di questo non c'è l'ombra. Certo, non si fa in un giorno, ma bisognava essere pronti e preparati da prima, bisognerebbe non aver negato la crisi per 3 anni. Il suo giudizio in generale sulla manovra come economista? È una cosa che serve a trovare di gran carriera in maniera raffazzonata i soldi che servono, ma lo fa senza alcun riguardo per la crescita e senza una definizione delle priorità. Tra poco verremo alla giornata di mercato che si chiude in negativo per Milano, meno 0,25%, meno 0,19% sul Fuzio Share, meno 0,25% sul Fuzzi MIB, in negativa anche per Francoforte, meno 1,71%, protagonista di quello che è quasi un paradosso di quello che sta vivendo in questi giorni l'Unione Europea, perché si sono diffuse addirittura voci di un downgrade della Germania. Evidentemente il mercato per un attimo ci ha creduto, perché Francoforte è scesa del 4%, tanto che le agenzie di rating sono state costrette a riaffermare la tripla A. Prima però parliamo di Libia, perché oggi c'è stato un appuntamento importante che in parte vi abbiamo raccontato all'interno dei nostri giornali radio, ossia l'incontro tra Berlusconi e il leader del Consiglio di Transizione, Mahmoud Jibril, a Milano, nel quale si è parlato anche di temi economici, a partire dallo sblocco dei fondi dello Stato libico congelati nelle banche italiane. Sentiamo Berlusconi. Abbiamo dato la disponibilità del nostro governo allo scongelamento dei fondi di Stato libici che sono attualmente congelati presso il sistema bancario italiano. Abbiamo cominciato con una prima tranche immediatamente disponibile di 350 milioni di euro. E poi l'altra grande partita, quella petrolifera. Sentiamo. Con un accordo che sarà firmato probabilmente già lunedì a Bengasi da parte dell'Eni con il nuovo governo e personalmente da Paolo Scaroni, la possibilità da parte nostra di anticipare senza pagamento da parte della Libia ingenti quantitativi di gas e di benzina per le immediate esigenze della popolazione. E poi il diretto interessato, l'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, parlando con i giornalisti alla conclusione dell'incontro appunto tra Berlusconi e Jibril, al microfono della nostra Raffaella Calandra. È tempo che da parte del comitato transitorio ci viene sottolineata la necessità che hanno di carburanti, perché naturalmente le raffinerie sono ferme e quindi soffrono di mancanza di benzina e di gasolio. Dopo tutta una serie di problemi che sono soprattutto sul fronte legale, abbiamo trovato una soluzione per anticipare della benzina e del gasolio da raffinerie italiane che forniremo nei prossimi giorni a Bengasi, a fronte di un pagamento futuro che riceveremo in petrolio quando i campi petroliferi si rimetteranno in funzione. Naturalmente per far questo ha avuto un ruolo importante il riconoscimento internazionale del Comitato Transitorio, perché se no non potevamo fornire di fronte a un'istituzione che non è riconosciuta. Ecco, in parallelo, sempre secondo una loro richiesta, stiamo lavorando attivamente per fare tutti gli studi necessari per il ripristino dei campi petroliferi dalla parte della Cirenaica e in particolare questo grande campo che si chiama Sair, che è nel sud della Cirenaica. Ancora Scaroni su che cosa privilegia l'ENI nella ripresa, nella riattivazione delle forniture. Quello ci vorrà tempo, ci vuole innanzitutto che ci sia una situazione di sicurezza delle persone, che nella zona della Tripolitania in questo momento certamente non c'è. Noi privilegiamo la ripartenza del gas, perché mentre non esiste nessun problema di sicurezza d'approvvigionamento per quanto riguarda il petrolio, certo, a me affrontare il prossimo inverno con una delle nostre fonti tradizionali ferma, devo dire la verità che non mi piace per niente. Rappresenta 10-12% dei nostri consumi, però confermiamo che possiamo vivere senza le forniture di gas della Libia. Però non è che gli altri fronti ci diano totale tranquillità, quindi io quando vado a letto la sera l'ultima cosa a cui penso sono gli approvvigionamenti di gas del prossimo inverno. Per petrolio ci vuole più tempo, secondo me ci vuole, secondo i campi, tra 6 e 18 mesi. E poi sull'ipotesi, che è il vero centro dell'attenzione, che la Libia cambi partner. Non è che uno si sveglia la mattina e cambia un'azienda petrolifera con l'altra. Innanzitutto non lo fa perché ci sono dei contrattoni che assistono tutte le attività petrolifere in un paese. Il secondo, perché si sparerebbe in un piede, non c'è ragione di cambiare gli operatori che conoscono i campi, conoscono le persone, conoscono il sottosuolo, cioè c'è tutta una serie di know-how che non è che uno dalla sera alla mattina si fa. Terzo, poi nel caso specifico dell'Italia, la pipeline che ci lega alla Libia lega l'Italia alla Libia, non è che quel gas uno può spedire in Cina, se non c'è il tubo come fa? Quindi devo dire la verità, non sono preoccupato, sono più preoccupato sul fatto che si ristabiliscono quelle condizioni in particolare di ordine pubblico, di ordine diciamo, che consentano di riprendere le attività. Così l'amministratore delegato dell'ENI, Scaroni, e veniamo alle borse. Teo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Una giornata ancora una volta decisamente strana, perché siamo partiti benissimo. Dopodiché poi tutto giù, o quasi, anche se non in maniera drammatica. Meno 0,25 sul FTSE MIB, meno 0,18 sul FTSE All Share. Che cosa è accaduto? Sì, diciamo la settimana e la giornata era iniziata molto bene, soprattutto per Milano, che addirittura dopo le due era addirittura arrivata a guadagnare più del 2%, trascinata dalle banche, Intesa Unicredito era una più 7% dal settore auto europeo. Poi questo giallo su Francoforte, attorno alle 4 l'indice che guadagnava leggermente, meno di Milano, è immediatamente crollato del 4%. Non si è capito ancora bene a cosa è stato legato questo crollo, forse la vendita di un grosso basket di titoli, poi si parla di indiscrezioni, comunque smentite dalle agenzie di rating di un possibile downgrade della Germania. Sta di fatto che comunque le perdite sono state, i guadagni di Milano sono stati completamente azzerati, Francoforte alla fine ha chiuso a meno 1,7%, Parigi meno 0,6%, quindi un'altra giornata strana e comunque negativa. La storia di mercato di oggi direi che arriva decisamente dagli Stati Uniti, CEO, no? Sì, sì, perché c'è stata questa decisione molto forte da parte di Warren Buffett di investire una cifra decisamente ingente, 5 miliardi di dollari in Bank of America, ed è stata una decisione che inizialmente non aveva fatto altro che consolidare il rally dei finanziari, poi invece appunto questo tonfo di Francoforte ha trascinato in rosso anche Wall Street, dove adesso il Dow Jones perde l'1,2%. Sì, da dire che Bank of America adesso guadagna intorno al 13%, quindi probabilmente è già stato profittevole l'investimento di Warren Buffett, come spesso gli accade. Noi restiamo nel nostro più piccolo mercato e iniziamo da Prismian, che chiude con un guadagno del 4%. Sì, Prismian è la migliore, più 3,94%, domani sono attesi i conti semestrali, c'è ottimismo tra gli operatori, ma ricordiamo anche che Prismian nei giorni scorsi aveva toccato i minimi dell'ultimo anno, quindi è normale che qualche acquisto arrivi su un titolo che evidentemente viene considerato economico dagli operatori. Abbiamo una breve pausa per la viabilità, cioè resta con noi che così parliamo anche degli altri titoli. Ancora sui mercati con CEO Condina di Radio Corriere, il Sole 24 Ore. Dei bancari nemmeno te lo chiedo, nel senso che la giornata è stata tutto sommato positiva per tutti, forse anche trainati dalla vicenda di Bank of America. Il Monte dei Paschi ha guadagnato il 2,90, il Banco Popolare il 2,8, Unicredit l'1,68, Intesa l'1,61. C'è anche questo motivo dietro o c'è altro? Ma diciamo che ci sono diversi elementi. Allora, innanzitutto il fatto che nelle ultime settimane questi titoli sono andati molto male, basta vedere i valori, Intesa a 1,1, Unicredit addirittura sotto l'euro. Poi si attende, diciamo, a ora una comunicazione ufficiale da parte della Consob su un prolungamento sul divieto delle vendite allo scoperto appunto sui titoli finanziari, divieto che in caso di indicazioni contrarie dovrebbe finire domani, e poi insomma sì, e poi arriva anche questa notizia di Bank of America che ha portato i titoli al rialzo. C'è un'eccezione, è il peggior titolo del FTSE MIB, Banca Popolare di Milano, che ha perso il 3%. In queste ore, in questi momenti, è in corso il consiglio di amministrazione della banca, che avrà l'esame, oltre che la semestrale, anche l'esercizio delle deleghe per il criticato, insomma, aumento di capitale da 1,2 miliardi. Da parte degli operatori evidentemente c'è grosso nervosismo sul futuro della banca e sull'esito del consiglio di amministrazione. Naturalmente. Bene Fiat, più 1,42%, anche oggi evidentemente continua a beneficiare delle parole di Marchionne. Sì, Marchionne ha smentito l'aumento di capitale. Anche nel caso di Fiat, come nel caso delle banche, stamattina i guadagni erano molto più consistenti, ha raggiunto il 5% sia per la SPA che per l'Industrial e anche per la controllante Exor. Adesso il titolo pian piano sta recuperando, comunque i valori di qualche settimana fa sono ancora molto molto lontani. Così Fiat, ecco, Atlantia e Telecom sono due storie in qualche misura parallele, perché si è diffusa questa voce che la Robin Tax fosse estesa anche a queste concessionarie e poi in realtà non, a quanto pare non se ne fa nulla, si sono avute rassicurazioni da parte della politica. Sì, diciamo che c'è molta confusione sul tema, anche ieri alcuni esponenti del governo sostenevano delle tesi, altre delle altre, comunque ieri entrambi i titoli avevano perso parecchio terreno, soprattutto Atlantia, che invece oggi è rimbalzata facendo segnare un più 2,2%, diverso il discorso per Telecom che oggi ha continuato a perdere meno 1,7%. Dall'altro lato invece le utilities, l'energia. Sì, l'energia ieri era rimbalzata decisamente proprio sull'ipotesi che l'aliquota dell'addizionale IRES legata alla Robin Tax non fosse inasprita, invece oggi sono state dei realizzi, nel Green Power ha perso l'1,9%, Enel l'1,7%, Snam Rete Gas lo 0,9%, insomma dopo il mercoledì da Leone, un giovedì un pochino più tranquillo. Un pochino più tranquillo, un po' più da pecore. Bene, grazie mille, grazie a CEO Condina di Radio Corriere, il Sole 24 Ore e buonasera. Buonasera. E adesso noi parliamo di tecnologia, diciamo così. Uh, Nel frattempo ci continuate a scrivere ovviamente al 349-238-6666 sui temi della manovra, in particolare l'attenzione vedo che si concentra sul cosiddetto contrasto di interessi, ossia la possibilità di far sì che scontrini, fatture siano deducibili, poterli portare in dichiarazione dei redditi in maniera da stimolare l'emissione dei medesimi, l'emissione delle fatture degli scontrini da parte di professionisti, negozi e così via, in maniera che i consumatori dicano bene, adesso me lo fai perché io lo porto in deduzione. In realtà è un meccanismo che funziona fino ad un certo punto, ci sono degli studi su questo, tra l'altro vi segnalo, ne abbiamo visto uno di recente firmato da Maria Cecilia Guerra e Zanardi sul sito della voce.info. Parliamo, si diceva, di tecnologia. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Per chi l'ha riconosciuta, è la voce di Steve Jobs in uno speech che è rimasto famoso alla Stanford University. Steve Jobs che alla fine ha deciso di lasciare la guida della compagnia. Le parole ve le ripeto per chi insomma masticasse solo in parte l'inglese. Dice ai ragazzi di Stanford: il vostro tempo è limitato, non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro, non rimanete intrappolati nei dogmi che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione, vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare, tutto il resto è secondario. Ed è detto da uno che ha portato la sua azienda ad essere la seconda per capitalizzazione in tutto il pianeta. Marco Magrini, buonasera. Buonasera. Marco Magrini del Sole 24 Ore. È così, l'ha portata ad essere la seconda per capitalizzazione del pianeta. E ora? La partita è aperta ovviamente, però sicuramente una cosa è sicura, che i prossimi prodotti di successo sono già pronti, c'è l'iPhone 5 che sta per essere lanciato sul mercato e c'è una grande attesa da questo punto di vista, per cui è come dire, la solidità finanziaria e economica del gruppo al momento non è assolutamente in dubbio. Ovviamente le domande sono riferite a lungo termine, quali saranno le sorti di Apple nel lungo termine, ma questo devo dire che essendo che Steve Jobs si è ammalato di questa rara forma di cancro al pancreas, peraltro piuttosto maligna, nel 2004, diciamo, ha avuto tutto il tempo per preparare adeguatamente la successione. Siccome è facile immaginare che abbia messo altrettanta attenzione e maniacalità nel fare questo come è abituato a fare con i suoi prodotti, è realistico immaginare, e molti degli analisti finanziari già oggi commentano in questo senso, che la squadra sarà in grado di essere all'altezza. Chi è questo Tim Cook che lui di fatto si è scelto come successore, Marco? Tim Cook ha una lunga storia nell'industria della tecnologia, però fondamentalmente è sempre stata una persona di secondo piano, anche come dire dal punto di vista della sua personalità, è uno che non ama apparire, che ama stare dietro le quinte, però come dice lo stesso Steve Jobs di lui, è uno straordinario esecutore. Esecutore in un'azienda che lavora ai ritmi forsennati dell'Apple, avere prodotti nuovi ogni anno su almeno 5 linee di prodotto, più tutte le trattative, perché l'Apple, non dimentichiamolo, ormai è diventata anche una grande rivenditrice di contenuti, musica, film, televisione, addirittura anche i libri. Tutti ovviamente in formato digitale, per cui si tratta di governare sopra un impero dove l'esecuzione veramente conta, e conta anche come dicevano le parole che hai citato tu di quel fantastico discorso di Steve Jobs agli studenti di Stanford, la capacità di pensare in maniera più acuta degli altri senza seguire necessariamente gli altri, che è stato alla base del successo di questa azienda. Marco, tra l'altro Jobs resta in realtà, anche se non avrà più il ruolo operativo che ha avuto fino adesso. Sì, resterà come chairman del consiglio d'amministrazione. Detto questo, ovviamente io non sono un medico, non sono cose delle quali si può parlare, però di quelle quali posso parlare, però ecco, la sensazione è di una uscita di scena molto studiata, anche tenendo d'occhio la borsa. Cioè pochi mesi fa ha detto esco di scena un'altra volta, ma resto, si è fatto vedere, ha dato fiducia a Tim Cook, l'azienda ha fatto degli straordinari risultati finanziari anche nell'ultimo trimestre, gli investitori si sono tranquillizzati e era, secondo me, probabilmente mi sbaglierò, era già preparato il fatto che a fine agosto avrebbe dato il definitivo addio. Quindi non so oggettivamente valutare quanto lui ancora possa dare il suo contributo, questo veramente non lo sappiamo. Grazie a Marco Magrini del Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera Marco. Buonasera. Io vi cito tra l'altro quello che scrive oggi il Financial Times, dice: è ragionevole preoccuparsi su Apple dopo Steve Jobs, è insostituibile come pochi altri uomini d'affari, non poteva lasciare Apple in una condizione migliore, non è l'intera società ma è lui che la definisce prendendo decisioni concrete, ispirando con una mente capace di anticipare i desideri di massa. Questa è l'opinione del Financial Times su Steve Jobs e vedremo che cosa sarà della compagnia nei prossimi mesi e soprattutto nei prossimi anni. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, a Mauro De Angeli in regia, un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.